You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto, benvenuti ancora una volta a questa trasmissione di Radio 24. Questa sera parliamo di una storia di commercianti di cavalli, di macellai, due culture, quella dei contadini e quella dei Rom, che interagiscono, si fondono e nascono nuove famiglie, le famiglie Rom-Salentine. Una storia poco raccontata ma che è al centro di un film, Gitanistan, lo stato immaginario delle famiglie Rom-Salentine. Un film documentario, e abbiamo uno dei protagonisti questa sera, Claudio Cavallo Giagnotti. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Leader di una formazione salentina, giusto? Sì, sì, noi siamo i Mascari Miri, un gruppo di musica salentina che sperimenta tra la pizzica, l'elettronica, la pizzica è la musica salentina appunto, l'elettronica e i colori del Mediterraneo, mischiando tutto questo. Esce un melting pot che noi chiamiamo trad innovazione. E noi le sentiremo queste musiche durante la puntata. Lei è figlio di un signore italiano e di una signora Rom. Sì. E da questa sua storia, dalla storia di suo padre, di suo nonno, nasce l'idea, mi pare di capire, di questo film, che non è soltanto un film, ma è anche molto altro, no? È stato un disco, una mostra. Ma ci racconti un po' di più di questa storia della sua famiglia. Sì, allora le famiglie Rom in Salento arrivano già intorno al 1500. Noi il primo documento che abbiamo, abbiamo trovato proprio come che testimonia una presenza vera, nel senso che documento scritto, 1601, un battesimo di due fratelli dal cognome Rinaldi, Rinaldi Barbetta, Caracciolo, Dolce, De Matteis, Bevilacqua, sono tutti cognomi Rom Salentini. Dico Rom Salentini perché ormai siamo salentini a tutti gli effetti, nel senso che mio nonno ha fatto anche la guerra per l'Italia. E ha combattuto anche in Eritrea, se non sbaglio. Sì, sì, sì, ha fatto la guerra del 26. Quindi una grande presenza storica, radicata, sì. E da questa presenza, che poi si è trasformata non nel tempo perché sono arrivati da Napoli i Rom nel Salento. C'è questa studiosa Elia Merchioni che proprio tramite i cognomi ha un po' fatto una mappatura, no? di queste famiglie, proprio i cognomi Bevilacqua e Rinaldi appartengono a due famiglie nobili dell'area, diciamo, campana, ferrandina, da quelle parti là, tra la zona tra la Puglia e la Campania. Questa è un po' l'area geografica dove abbiamo trovato i primi insediamenti di questi cognomi. E si muovevano con questo lasciapassare, no? Delle famiglie nobili napoletane. Viaggiando da ducato a ducato, ovviamente, no? E sicuramente i ducati erano tutti parentati, si facevano dare un foglio di via, quindi anche un foglio che proteggeva la loro arte, il loro cammino, no? Sono sempre famiglie pensate con una diversità che i gitani stanno racconta in una maniera positiva, ma anche noi abbiamo subito razzismo, e ovviamente non è cambiato niente da 500 anni a questa parte, quindi sicuramente questi fogli erano fogli più che altro di protezione per poter andare da casato a casato e fare una vita tranquilla. Partiamo da mio nonno, Seppu Zingaro, grande commerciante di carne di cavallo. Poi arriva mio nonno e mio zio Oronzo, appunto, che da allevatore diventa commerciante, quindi c'è un altro passaggio, fino ad arrivare a Claudio Cavallo, che diventa un artista, che diventa un musicista e che questa sua appartenenza a Rom la rivendica soprattutto in quelle che sono la musica. La cosa importante che abbiamo, tra virgolette, raccolto in questa campagna di ricerca che abbiamo fatto è questa ricetta, no, dei pezzetti di Cavallo del Sugo. E questo ci interessa molto, perché noi chiediamo sempre ai nostri ospiti se ci hanno portato qualcosa, visto che questa è una cena, un invito a cena. È una ricetta che i salentini consumano in maniera abituale, quindi tutti pensavano che fosse una ricetta autoctona, cioè che i salentini avessero fatto, no? Invece è l'incontro tra la carne di cavallo che hanno portato i Rom. In principio era proprio un bollito, proprio cucinato con una padella di creta, noi le chiamiamo le pignate, no? Di terracotta, e poi arriva il pomodoro e qui c'è questo connubio proprio appunto tra la carne di cavallo allevata dai Rom e il pomodoro salentino, e appunto oggi i pezzetti sono il piatto forte della cucina salentina. Sono entrati questi pezzetti di cavallo proprio a rappresentare una tradizione culinaria della cucina salentina, e anche questo, come diceva lei, è un esempio di quella compresenza di più culture, no? In questo momento di rispetto reciproco, ma come lei giustamente diceva, non è sempre stato così. Cosa succede con le nuove generazioni? Io so che lei ha dei figli, si identificano in questa commissione di culture oppure se ne sono allontanati? Allora, i ragazzi di oggi, ovviamente alcuni hanno sempre questa paura di dire io sono un Rom salentino, anzi uso una parola un po' più cattiva, zingaro, no? Invece altri, come per esempio una mia cugina, Luciana Rinaldi, lei è fierissima, porta avanti il mestiere del padre, va nelle fiere e fa la donna, che è anche una riflessione diversa rispetto ad essere maschio, e porta anche l'aspetto della lingua, no? Le ha voluto imparare la lingua, perché poi c'è questa lingua che è super parlata, super usata in Salento, quindi soprattutto nel commercio dei cavalli. Quindi c'è questa doppia visione, no? Dei giovani che si nascondono, perché poi alla fine i Rom in Salento escono con i salentini, diciamo, la sera fanno vita sociale insieme. Quindi sai, però questo aspetto razziale è sempre presente, c'è questa nebbiolina che c'è sempre, no? nella società salentina. Quindi ovviamente chi poi alla fine è Rom lo risente di più e ovviamente vive un disagio. Altri invece gridano io sono zingaro, punto e basta, o mi rispetti o mi rispetti. Questa è un po' la doppia faccia della medaglia. Manda! Questa commistione fra culture lei l'ha proprio elevata nella musica, grazie a questa interazione fra la musica salentina, la pizzica e una rigorosa ricerca sulle origini Rom, no? C'è anche questa bella canzone che sentiamo, quella della balcanica pizzicata, che è una sua invenzione, così? Sì, ma perché oggi quando si pensa a musica gipsy, a musica rom, a musica zigana, si è sempre con l'idea di questa musica che c'è nell'est Europa o della rumba catalana o del flamenco. Invece io penso che a livello musicale ci sia un'interpretazione rom. Mi spiego. I Rom abitano i luoghi che decidono di abitare, nel senso si fermano in Salento, vanno in Calabria, vanno in sud della Spagna. Ci sono Rom quasi in tutto il Mediterraneo, quindi. E alla fine non è che perché le musiche più commerciali si possono identificare rom. I rom in Sud Italia sono le tarantelle, sono le pizze, sono le tamburiate, cioè musiche autoctone del Sud Italia. E questo è un po' anche la nostra riflessione con Gitanistan, cioè non esiste una musica rom, esiste un'interpretazione. E con questa balcanica pizzicata proprio facciamo un'accoppiata tra il ritmo del tamburo a codice salentino, il tamburetto in dialetto, e insieme alle fanfare gipsy, alle fanfare diciamo che ci arrivano dalla Macedonia o dall'ex Jugoslavia, se vogliamo, per citarle tutte. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24. La passione si sente anche in viaggio. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Claudio, stiamo parlando di Puglia e di Rom. Non possiamo dimenticare i Rom italiani slavi che vivono anche nella zona, sì, in Puglia e a Lecce. Che tipo di rapporto c'è tra Rom e Sinti originari del Salento, ormai ben integrati da generazioni in Salento, e questa nuova comunità? Allora, grazie a Gitanistan negli ultimi 2 anni siamo arrivati proprio ad avere un rapporto, non dico di amicizia vera e propria, ma proprio di ci conosciamo, ci frequentiamo, usciamo la sera, facciamo festa insieme. Io adesso sono andato ad animare il loro San Giorgio, che è la festa più importante che hanno, con una persona, in primis Veco Limovic, siamo proprio diventati amici, con il responsabile del campo sosta, Beni, siamo diventati amici, usciamo la sera, come devo dirti, è una cosa veramente bella, bella, bella, bella. Poi è una cosa ancora più entusiasmante, a San Giorgio tutti i ragazzi conoscevano Gitanistan, la canzone, perché poi nella colonna sonora pure abbiamo fatto poi una canzone proprio che si chiama Gitanistan, e tutti la cantano, e questo per me è la cosa più emozionante, ma anche con i rom rumeni e bulgari che sono arrivati da poco, da un paio d'anni. Quindi nel Salento veramente possiamo raccontare una grande storia di positività, di incontro, sia tra rom salentini e rom, diciamo, tra virgolette, non salentini, ma anche tra salentini e rom, perché poi anche loro raccontano che il fatto di uscire la sera e trovarsi, che ne so, al bar XY è più facile parlare con le persone rispetto a incontri fatti, che ne so, anche in Germania o in Svizzera. Cioè il calore del Salento si vede anche in questo. E allora ricordiamo la storia dei rom slavi, era una storia che doveva essere momentanea, abitavano in case nella ex Jugoslavia, scapparono nelle guerre degli anni 90, vennero alloggiati dalle autorità, sì, italiane, sì, in quello che campo che veniva definito la sosta, no? Poi la sosta, sì, durava lungo. Campo sosta Panareo. Oggi possiamo dire quasi un villaggio, perché poi oggi sono nate anche le case fatte con i mattoni, all'epoca erano dei prefabbricati, oggi hanno fatto anche delle casette in mattoni, quindi la filosofia dei campi, che noi non approviamo ovviamente con questo progetto Gitanistan, in Salento continua, non capisco perché si buttano tanti soldi per mantenere i campi invece di dare una speranza di incontro a queste persone che, ripeto, sono persone veramente che basta dargli un'opportunità e tirano fuori il meglio di loro. Un'ultima cosa, Claudio, poi la lasciamo al suo concerto. Qual è stato l'impatto di Gitanistan in Italia? Ha avuto successo? Pensate di riproporlo? Gitanistan a livello di di film documentario, già il fatto di aver avuto una distribuzione, no? Che è andato nei cinema, questo è un aspetto positivissimo. Poi quest'anno abbiamo riaperto il progetto, nel senso abbiamo cambiato il sottotitolo da Lo Stato Immaginario, l'abbiamo fatto diventare Apriamo i Confini, quindi è diventata una campagna social, abbiamo fatto un festival. E in questo periodo abbiamo quasi una ventina di città che ospitano proprio gli eventi digitali, stanno con cibo, con proiezioni, con la mostra appunto sulle famiglie rom fiorentine. Quindi io penso che già in due anni, in un film che può essere super autoprodotto, super autofinanziato, quindi non voglio, diciamo, tra virgolette, piangermi addosso, però non è stato facile poi trovare anche le risorse, perché poi ovviamente tutto ha un costo, risorse per fare questo lavoro. Ci sono stati pregiudizi anche in questo senso? Non lo so, perché poi non sono stato io poi a trovare le risorse economiche, è stato Pierluigi De Donno, co-regista del progetto, quindi io ho messo soltanto l'aspetto artistico e della ricerca. Però penso che sia stata una vera e propria, diciamo, cartolina positiva che può raccontare in Italia e in Europa, che dando una possibilità a delle persone, ripeto, normalissime, basta parlare dei rom come se fossero degli emarginati, delle brutte persone, dei delinquenti, come in tutte le società ci sono i buoni e i cattivi, punto. Raccontiamo la positività, e questa è la cosa che ci interessa con Gitaristan. E siamo contenti che la gente lo ha capito. Grazie Claudio, assaggeremo anche questi pezzetti di carne Roma Salentini. Noi faremo la nostra festa l'11 agosto per concludere proprio appunto il progetto Gitaristan al nostro festival che si chiama Ballati, l'11 agosto a Muro Lecce, in provincia di Lecce. E tutti noi ci saremo. Grazie a Claudio Giannotti. Grazie, buona serata. Grazie. Cosa mi ha creato 20 anni fa? Se questo doveva essere il risultato, era meglio sciabustirla al mercato. E lo abbiamo citato, Pierluigi De Donno, co-regista del documentario film Gitanistan, e l'abbiamo con noi. Buona serata, Pierluigi. Ciao, buonasera. Ci diceva Claudio che è stato un po' difficile trovare finanziamenti, distribuire questo film. Che tipo di difficoltà avete incontrato? Ma le solite difficoltà che si incontrano per produzioni di questo genere, produzioni molto piccole e che hanno poco appeal sulla distribuzione cinematografica o comunque sulla distribuzione televisiva. Visto che poi la televisione cerca produzioni seriali e al cinema i documentari non hanno un posto di rilievo, sebbene le cose stiano un po' cambiando, devo dire. Nessun tipo di pregiudizio per il tema trattato? Non mi sento di dire questo. Il tema è un tema molto difficile, nel senso che alla maggior parte del pubblico non interessa sentire questi discorsi, anche se noi parliamo di integrazione, non facciamo vedere delle persone discriminate o delle cose pesanti anche visivamente, ma portiamo degli esempi positivi. Il tema dei rom o il tema della marginalizzazione è sempre un tema di poca rilevanza, soprattutto per quei media che fanno comunicazione di massa, no? Poi devo dire che anche la scelta di utilizzare un linguaggio abbastanza difficile da comprendere, no? Nelle scene parlate in salentino senza sottotitoli, forse è una scelta difficile per il pubblico. Sì, probabilmente nella versione che manderemo online, nella versione che si potrà comprare su iTunes, metteremo i sottotitoli in italiano in alcuni punti del dialetto salentino, mentre per la lingua rom non metteremo sottotitoli. Devo dire che sì, ci sono arrivate un po' di critiche, ma anche dei complimenti, e spesso non è una difficoltà per lo spettatore, perché quello che abbiamo apprezzato è che si concentrano molto sull'energia che passa dalle persone, perché poi il senso del film è un po' quello, no? Far vedere come queste persone hanno affrontato delle cose difficili con dell'energia positiva. Le persone che ascoltano a volte non capiscono, si fermano più a notare i tratti della persona, l'energia, i movimenti, quindi abbiamo apprezzato questi commenti. Ci sono state anche delle critiche, però ci sta. Tu come sei venuto a contatto con questa realtà, Pierluigi? Io sono venuto a contatto perché sono originario di Lecce, anche se non vivo, ahimè, non vivo a Lecce, vivo vicino a Bologna. Ho conosciuto Claudio, che conoscevo come figura di spicco del panorama musicale della musica tradizionale salentina, però neanch'io, che sono di quelle zone, non sapevo che lui avesse origini rom e non sapevo che ci fosse una comunità rom in Salento, quindi per me è stata un po' una sorpresa, no? Scoprire che una comunità così folta era presente in Salento e che poi la comunità ha portato un valore aggiunto al Salento e alle tradizioni salentine, come penso che ne avrà parlato già Claudio, dei pezzi di cavallo, o anche tradizioni di danza, della pizzica scherma, comunque cose che ogni salentino crede fortemente parte della propria storia e in realtà poi sono frutto di un incontro tra queste due culture. Abbiamo parlato dei pezzetti di cavallo. La pizzica scherma invece è una danza, no, salentina? Sì, è una danza molto particolare che ha una storia dietro molto molto interessante che farà parte del nostro prossimo lavoro. È una danza che, diciamo, hanno portato i rom, ed è proprio lì. Ed è una danza che viene fatta spesso durante la notte di San Rocco, che è il 15 d'agosto. Questa danza si vede soltanto in quell'occasione, ed è proprio lì, in quella piazza, la piazza di Torre Paduli, durante la notte di San Rocco, che le due comunità nel corso degli anni, dall'inizio del Novecento, piano piano si sono incontrate, perché c'erano in un punto della piazza c'erano i rom che facevano questa danza. Perché la notte aspettavano la mattina che iniziasse la fiera, quindi la notte si dormiva lì in piazza. Quindi per passare il tempo i rom danzavano mentre i contadini salentini prendevano il tamburello, o meglio tamburreddu come direbbe Claudio, e suonavano. Inizialmente questi due cerchi, questi due mondi erano un po' distanti per ragioni che non sto qui a spiegare. Pian piano poi i due cerchi si sono uniti, e se adesso noi andiamo il 15 d'agosto, durante la notte di San Rocco, si vedono i suonatori salentini che sono il tamburreddu e i danzatori, in prevalenza di origine rom, che danzano. Quindi sono le due culture che di nuovo si incontrano e hanno creato, diciamo, un nuovo rito, che poi è un rito. Cavalli, che ruolo hanno nella storia del Salento, dei rom del Salento? Nella storia dei rom del Salento hanno un ruolo fondamentale, diciamo che sono il motivo anche per il quale i rom vengono in Salento. Queste famiglie arrivano e capiscono che i contadini salentini avevano bisogno di persone che sapessero allevare il cavallo, che sapessero curarlo, perché avevano bisogno del cavallo per l'agricoltura. In quel momento, siamo alla fine dell'Ottocento, in quel momento non c'erano persone, figure in grado di poter garantire questa cosa, e loro quindi si sono insediati in quelle zone e hanno coperto, diciamo, i vuoti dei mercati, un vuoto del mercato economico, sono andati a compensare delle mancanze che aveva il mercato dell'agricoltura, e quindi i contadini hanno visto benevolmente questo arrivo e queste persone, e i contadini, cioè i rom, hanno cominciato a collaborare con i contadini, si sono insediati lì, dopo un po' di tempo si sono integrati. Poi con la rivoluzione industriale il cavallo non serviva più all'agricoltura e loro si sono reinventati macellai, quindi macellavano i cavalli e li vendevano, e da lì poi è diventata abitudine anche per i salentini mangiare carne di cavallo. Da lì poi nascono i pezzetti di cavallo. Niente dieta vegetariana, insomma, per il Salento. No, assolutamente. Il cavallo è ricco di ferro, fa bene alla salute. Oh, continua! io da giù parla, la storia noscia stanno a cangare, su un tullu ballo della tradizione e la taranta non è della pezzica. Le figure delle donne sono forse un pochino in secondo piano, ci sono sicuramente queste tre figure di tre generazioni di uomini molto forti, però so che sono depositarie di della cultura rom in maniera molto forte. Fortissima, io credo che le interviste più belle siano state fatte da delle femmine. E la sorella di Claudio, ma anche la cugina di Claudio, la zia, sono tre interviste fortissimi, e le donne rom sono quelle che più di altre hanno subito un po' la discriminazione, sia da parte della comunità rom, perché sono state le prime a voler sposarsi con i salentini, a voler creare, no, quello che noi le famiglie rom salentine le abbiamo chiamate così, proprio perché queste donne a un certo punto decidono di non volersi sposare con rom, solo con rom, decidono di non volersi accontentare del compagno che gli imponevano i genitori, e quindi scappano dal nucleo familiare rom, si sposano con salentini e creano degli altri nuclei familiari, creano proprio, come dire, sanciscono l'integrazione e l'interazione che c'erano state tra queste due culture, formando delle famiglie. E loro sono quelle che più importanti, secondo me, le figure più importanti, proprio perché sia perché hanno subito una discriminazione un po' più forte rispetto agli uomini, sia perché sono state quelle che più di tutti hanno voluto l'interazione, l'integrazione. Io uso queste due parole perché non è giusto dire integrazione, perché è come se i salentini hanno permesso a loro, ai rom, di integrarsi. Preferiamo parlare di interazione, cioè queste due culture si incontrano, interagiscono e fanno nascere qualcosa di meglio. Buona serata, grazie. Grazie a te, un abbraccio. Grazie a entrambi per averci fatto conoscere questo documentario, mostra, disco e anche sito internet, potete cercarlo sul web Gitanistan. Grazie a entrambi, buona serata anche a tutti voi che siete stati all'ascolto questa sera di Indovina chi viene a cena. Ci risentiamo sabato prossimo alla stessa ora sulle frequenze di Radio 24. Buona serata da Valentina Furlanetto, ciao. You've got to give a little, that's the glory of love.